il titolo sarebbe? No, Gianluca, grazie per l'intervento, perché mi aiuta anche a, diciamo, a dare un indirizzo un pochino più chiaro a quello che volevo dire stasera, perché le cose da dire, ma certo, sarebbero tantissime, come ha detto Francesca, è un tema talmente vasto e che purtroppo tocca anche cose un po' noiose, perché sono aspetti giuridici, diciamo. Però, diciamo, l'esperienza che lui ha riportato probabilmente in qualche maniera ci costringe a fare i conti con la realtà con cui abbiamo a che fare. La premessa è che comunque delle scelte sono già state fatte. Questa è la prima premessa. Cioè, nel senso, ho scelto di voler intraprendere questo percorso di relazione con la città metropolitana, è stato preso. Questo percorso sta all'interno di un quadro normativo ben preciso, non ce n'è un altro, cioè da lì si scappa. Quindi il quadro è il codice del terzo settore, perché comunque, come la città metropolitana sostiene, che è il 117 del decreto legislativo del 2017, praticamente prevede che questa relazione, questa costruzione, questa relazione con l'ente preposto che dovrà andare, così si dice, a gestire, diciamo, quel bene, avverrà all'interno dell'articolo 55-56 di questo decreto. Che quindi vuol dire che noi già andiamo in una roba che ha dei vincoli, volente o nolente, sono alternative di dire, sapete, cioè, non ci interessa, e si ritorna all'ipotesi dell'altro giorno, no? Però mi sembra di no, cioè delle scelte, diciamo, in qualche maniera sono state già prese. Rispetto al quadro, siccome alcune risposte lui ha già date, rispetto al quadro, faceva prima riferimento Gianluca, teniamo presente che noi siamo in contemporanea di un processo che vede, diciamo, all'interno di questo vincolo anche quello che è stato ad oggi la comunità Mondeggi, che vorrebbe diventare con Mondeggi 2026, che non è la stessa cosa, giusto? No. Per chi ha visto questa esperienza fin dall'inizio. Allora, nella situazione precedente, noi veniamo da una situazione molto simile a quella che lui ha citato, che è una realtà, è un processo vissuto da persone fisiche, singoli cittadini, che hanno deciso di occupare una roba e fare una roba insieme, che è un po' diverso dal progetto Mondeggi 2026, mi sembra, no? È un'altra roba, sono due cose diverse. E quelle due cose diverse hanno gestioni e processi organizzativi, purtroppo, volenti o nolenti, se bisogna rispettare la salute, la sicurezza sul lavoro, sempre in un quadro formale, legale, chiamatelo come fa, come per fare, ho dato la anche se lo mando, io non posso parlare, chiamiamolo come vogliamo, è comunque un quadro che ci impone dei vincoli, e questi vincoli abbiamo detto in premessa che li abbiamo accettati, ok? Quindi questo è il quadro. Quindi all'interno di questo codice ci viene incontro un quadro normativo comunque nuovo, okay, che nel 75 c'è stato, non c'era. Allora, qual è il quadro nuovo? Il quadro nuovo è il codice, la coprogettazione, la coprogrammazione, e in più, oltre a questa, la legge della regione toscana, che è l'unica regione che ha legiferato in materia, la prima regione che ha legiferato in materia, che è la legge 60, mi sembra, del 2020, che è quella che regolamenta appunto le relazioni con gli enti terzi. Ok? Attenzione, perché ci sono due articoli importanti che bisogna tenere presenti. Uno è che l'ente che va a firmare la convenzione deve essere iscritto al registro da almeno 6 mesi. Quindi, e se questa cosa nessuno la cura, non si può fare. Questa è la prima priorità a cui pensare. La seconda è che se noi rientriamo in questo quadro, in una convenzione che andiamo a firmare, chi lavora lì dentro deve rispettare il contratto nazionale di lavoro rispetto a tipologia di attività che avremo in mente di fare. Ora, qual è la storia? Il decreto legislativo 117-2017 prevede che chi sono gli enti del settore? Sono degli enti riconosciuti o non riconosciuti, cioè che possono avere la personalità giuridica o non possono averla, che la cui differenza è che chi ha la personalità giuridica ha un patrimonio perfetto, cioè vuol dire che ha un capitale, chiamiamolo in gergo, per le società versato comunque da qualche parte, nel caso delle associazioni. Nel caso della PS sono 10.000 euro, nel caso di una fondazione sono 30.000 euro minimi, ha questa può essere un'associazione riconosciuta o non riconosciuta, che possono avere varie forme, oppure può essere un comitato, oppure può essere una fondazione, oppure può essere anche un'impresa sociale. Bene, che è un'impresa sociale di diritto, sono le cooperative sociali, non è vero, appunto, le cooperative sociali sono di diritto, imprese sociali. Quindi all'interno delle famose attività, perché siccome gli enti del settore devono essere iscritti al registro, devono svolgere attività ai sensi dell'articolo 5 del decreto, all'interno di quelle attività l'unica attività in cui rientrerebbe l'agricoltura, perché giustamente lì che andiamo a fare, c'è 170 ettari di terra che si fa, un parcheggio, no? Come spaltiamo l'agricoltura? Quindi è l'agricoltura sociale, è l'unica. Ma questo vuol dire l'agricoltura sociale. Però scusa, una cosa è la ristrutturazione dei beni mobili di spazio, un'altra cosa è. In che senso? La terra non va. Ma sicuramente la terra avrà dei vincoli che noi al momento non conosciamo, perché non sappiamo appunto qual è la situazione urbanistica o comunque di quel bene lì, non ci è stata detta, poi queste trattative che faremo cercheremo di capire meglio, perché poi appunto la questione delle tensostrutture o comunque tutto quello è legato un po' anche a qual è proprio il confine di quel bene dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista proprio dell'uso e via dicendo, che almeno io non conosco, non so cosa. E lì c'è il piano urbanistico del comune di Bagnaripoli che va guardato. Esatto, piano di zona, insomma, quelli che sono gli strumenti urbanistici che la provincia usa per regolamentare quel piano. Rispetto a quello che stava facendo Riccardo, nell'esperienza che ci stava Luca, c'era la forma dell'affitto in qualche maniera. Nell'esperienza nostra, noi siamo iscritti al RUNS, siamo iscritti al registro. No, abbiamo fatto la domanda, però è possibile che un APS iscritto alla 6 mesi, a quel punto facciamo che siamo passati 6 mesi. No, per una gestione, una gestione diretta della terra. Allora, no. Se fuori tema, ma che fuori tema? Ma è il fulcro della questione, è proprio lì la discussione. Cioè, noi siamo in questa situazione. Noi abbiamo detto, no, qui ora volevo fare un'altra cosa, vabbè, qui c'è un insieme di, è la Mondeggi oggi, no? Che sono, queste sono tutte persone fisiche. Questa è la Mondeggi, diciamo, che abbiamo in mente, dove abbiamo una serie di enti giuridici, va bene? Che è una cosa un po' diversa, va bene? Quindi partiamo innanzitutto da lì. Cioè, questa strada ha un'ipotesi, quest'altra ne potrebbe avere un'altra dal punto di vista giuridico organizzativo e gestionale. Cioè, non è la stessa strada. Quello che comunque collegare le due ipotesi, perché i due sono i vincoli che noi abbiamo, c'è un vincolo normativo che è l'articolo 55-56, che dice che tu devi essere un ETS. Punto. Quindi se vuoi essere un ETS, o sei un APS, o sei un ODP, o sei un ente filantropico, o sei un'impresa sociale, o sei una rete, o sei un ETS atipico, che è la sezione ultima dove ci vanno tutti, fondazioni, associazioni, comitati, diciamo. Quindi anche noi. Quindi queste sono le sezioni ad oggi esistenti. Quindi, e quell'ente di terzo settore, siccome l'altro vincolo è che noi abbiamo i terreni, per forza dovrà fare l'impresa sociale. E non c'è alternativa. Per forza dovrà fare? Dovrà fare l'impresa sociale. Certo. Altrimenti uno potrebbe fare agricoltura come attività diversa, come ETS, siccome c'è l'articolo 6 del decreto, che prevede le attività diverse. Una volta gli enti non profit, anche le ONLUS, diciamo, in modo particolare le ONLUS, non potevano fare tutto quello che uno poteva, aveva in mente di fare. Oggi, se tu sei un'associazione e garantisci, sei iscritto al RUNS, e garantisci di avere la tua attività prevalente nell'articolo 5, puoi svolgere un'attività non prevalente di altro tipo, apro una macelleria. Quanto pesa il bilancio? Sono due criteri che tu puoi usare, diciamo. La cosa non è secondaria. Quindi la scelta è chiaro che sta un po'. Il valore intelligente è dato dalla produzione del libro. No, si parla di. Allora, la possibilità è che tu sia un APS. una PS che comunque tra le sue attività, senza l'articolo 5, mi sembra che non soprattutto la PS Montesi ce ne ha diverse, non c'ha solo, ce ne ha diverse. Io potrei fare, ne so, formazione scolastica, turismo, potrei fare tante altre attività con cui garantisco quei ricavi che mi vengono richiesti per poter, diciamo, rientrare comunque negli ETS facendo un minore ricavo sull'agricoltura. Okay? Quindi le opzioni potrebbero essere due. E questo cosa vuol dire? Questa è un'altra cosa importante che bisogna capire ai fini dei bandi, delle possibilità e via questo e così via dicendo, perché per esempio mica tutti i bandi del DSR sono per l'agricoltura sociale, per dire. Tu dovresti essere invece un'impresa che può essere. Quindi anche questo fa parte della riflessione, però fa parte di una riflessione che secondo me in questo momento è legata a queste due strade, perché alla fine qualcuno la convenzione la deve firmare. E l'ente che firma la convenzione deve essere comunque un ente che rientra in questo articolo qua, quindi deve essere un ETS che deve avere allo stesso tempo la possibilità di garantire questo e la gestione dell'agricoltura, ma anche questo. E come si fa? Però allora io spero di non fraintendere il ragionamento. Diciamo che io adesso scrivo il patto sociale nostro sulla base della fotografia di Mondeggi come ora. Diciamo che la traspongo in cifre, analizzo il bilancio e decido se sono ente che fa agricoltura sociale o altro, con quella roba come marginalità. A me, per come sono abituata io, ed è anche l'estensione del ragionamento di Gianluca, dell'esperienza, si cresce, no? Si constata al di là del sogno, quello che effettivamente poi cammina, può darsi che a un certo punto il peso in bilancio delle varie voci cambia abbastanza da... Quanto è complesso, quanto è difficile, quanto è lungo cambiare eventualmente in corso la configurazione che ci siamo dati? Cambiare in che senso? Perché non so. Okay. Questo vincolo ci dà comunque, perché se firmi una convenzione probabilmente sarà trentennale e quella convenzione ti devi garantire che per 30 anni stai a questo. Ok, non cambi statuto, cioè non è possibile. Ma lo statuto lo puoi modificare per aspetti che però non toccano i tuoi requisiti soggettivi di accesso a quella convenzione, che è appunto la legge regionale che prevede delle cose ben precise. I requisiti di accesso. Sì, certo, devi essere un ente di terzo settore iscritto al registro e quindi ha la possibilità di aver gestito il tavolo, di copra gestazione, quindi va alla fine della convenzione con la città metropolitana. Però diciamo, delle modifiche diciamo di altra natura le puoi fare, ci mancherebbe. Sì. Però sempre comunque teniamo presente che le due strade, seppur non compatibili completamente dal punto di vista giuridico, organizzativo, soprattutto gestionale e così via, cioè diciamo comunque hanno lo stesso obiettivo. Si possono bilanciare, hanno lo stesso obiettivo e forse conviene impostarsi fin d'ora in modo che siano bilanciabili agevolmente via via che evolve il bilancio, bisticcio. Ma anche probabilmente per vedere delle forme intermedie. Però è chiaro che come diceva Luca, Luca di Max 6, Luca. Cioè lui diceva, cioè non ci sono, nella mia esperienza, non so, lavorando anche in progetti internazionali, cioè nessun atto giuridico ci salva ci tutela dalle responsabilità o dalle scelte di quanto esseri umani facciamo. Cioè quello che ci salta, come ha detto la Magazzei, è la fiducia e la creazione di rapporti che, confermato anche da quello che ha detto San Luca, garantiscono le corresponsabilità di ciascuno di noi, che riguarda molto, forse in questo momento è più preoccupante questa evoluzione che questa.